La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, che piacere, che meraviglia ritrovarsi come sempre il sabato a parlare di cinema qui su Radio 24. La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, un'ora di cinema bella intensa in questa settimana post-Oscar. Fra poco sentiremo anche Boris Sollazzo, così facciamo due chiacchiere a consuntivo. Si è detto tanto, tantissimo, forse anche troppo, insomma, del premio a DiCaprio, degli altri Oscar. Cercheremo di analizzare un attimo, di mettere il bollo Rosa Purpurea sulla Notte delle Stelle, però prima, cominciamo subito a tuffarci nell'atmosfera dei nuovi film in uscita in questo fine settimana, che sono veramente numerosi, una buona decina, forse anche 11, a contarli bene, fra quelli in uscita breve e quelli in uscita di tenitura. Vogliamo cominciare da un film che ci introduce all'imminente Festa della Donna, l'8 marzo. Il film si intitola Suffragette, ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Lottiamo perché un giorno ogni bambina venuta al mondo possa avere le stesse occasioni che hanno i suoi fratelli. Noi non vogliamo violare la legge, vogliamo fare la legge. Un'icona per un'icona. La voce appena sentita è quella di Meryl Streep, che interpreta Emily Pankhurst, leader della Women's Social and Political Union, colei che chiede diritti e voto per le donne nella Londra del 1912. È ricercata, i suoi comizi sono convocati di nascosto e a uno di questi, che viene arrestata per la seconda volta, Maud Watts, chiamata a parlare anche davanti al primo ministro. Lavorate alla lavanderia Glasshouse? Ci sono nata. Ho iniziato a mezza giornata dai 7 anni. Sono a tempo pieno dai 12. Che significherebbe il voto per voi? Voto alle donne! Il potere è nelle vostre mani! Fino a quel momento il potere è stato nelle mani degli uomini, che non se ne vogliono privare, tantomeno per darlo a chi poi potrebbe pretendere altro, come la possibilità di essere elette, a chi ha già da fare a occuparsi di casa, marito e figli, su cui peraltro non ha diritti, a chi non è intellettualmente all'altezza. Sono alcune delle scuse avanzate per l'ennesimo no alla legge, un no che porta le donne, ignorate anche dalla stampa, a radicalizzare la protesta, senza mai però cercare il sangue. Non possiamo rispettare una legge che non ci rispetta. Un tale livello di anarchia non si può più tollerare. Punite le responsabili con qualsiasi mezzo. No, no, fermi! Mamma! Siamo in ogni casa, diamo la vita, non riuscirete a fermarci. Fatti, non parole, il grido delle donne che chiedono il voto, donne della classe operaia, come la Maud di Carey Mulligan, ma anche colte come la farmacista Helena Bonham Carter, peraltro bisnipote del primo ministro che si opponeva alla legge. Donne ben lontane dallo stereotipo cinematografico della suffragetta di Mary Poppins, l'unico conosciuto a lungo anche dalla regista Sarah Gavron. I didn't know it either. I mean, I wasn't taught it at school and I wasn't taught it at university. Neppure io lo conoscevo, non me lo hanno insegnato a scuola e nemmeno all'università. È stato solo quando ho cominciato a leggere e studiare, mi sono immersa negli archivi, che ho scoperto questa storia straordinaria che è stata veramente nascosta e marginalizzata. Anche per le attrici è stata una rivelazione ed è stato esaltante per loro scoprire questa storia. C'era questa immagine delle suffragette con i cappelli, il nastro bianco, le gonne larghe. Non è l'immagine reale. Quando abbiamo guardato foto e filmati d'archivio è apparsa una cosa molto diversa. Photography and cinema, there was such a different impression that we got from that. Il merito di questo film è raccontare una storia vera, la storia vera delle suffragette, documentata da 6 anni di ricerche e scritta da Abby Morgan, già dietro The Iron Lady. Il demerito può stare nell'essere un po' troppo scritto, nel cadere nel documentaristico e nella rigidità del film in costume, ma non accade, o almeno non completamente, e ci si sente alla fine partecipi della lotta. Suffragette è un film di coralità femminile, davanti e dietro la macchina da presa, rarità nel cinema, come spiega ancora la regista. Really unusual in movies. I mean, I think we're the first film ever to have that many women on it. Assolutamente non comune nei film. Credo che sia la prima volta che ci sono tante donne fra produttrice, sceneggiatrice, regista, scenografa, costumiste, anche chi ha cercato le location per filmare, oltre a quelle che recitano. È molto difficile dire perché il cinema sia ancora indietro per inclusione femminile rispetto ad altre industrie. È un'attività complessa che comporta grandi investimenti. Tradizionalmente le donne non sono messe a capo di cose che comportano così tanti soldi. Bisogna essere come un generale che guida un esercito, e le donne non erano abituate a questi ruoli, in particolare quello del produttore. Io spero però in un cambiamento. Suffragette esce a pochi giorni dal 70° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, il 10 marzo, e ricorda nei titoli di coda quanto ancora sia lungo il cammino della parità. E allora Suffragette con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Brendan Gleeson, grandi protagonisti. Suffragette che entrerà probabilmente nella top 10 della classifica della prossima settimana. Per quanto riguarda invece la settimana che si sta concludendo, ancora grandissima performance di Perfetti Sconosciuti, che già nella scorsa settimana aveva incassato quasi 3 milioni e mezzo, e non era la prima settimana di programmazione, e quindi sta funzionando tantissimo il passaparola per Perfetti Sconosciuti, che è arrivato a superare quota 12 milioni di incasso e si avvia, almeno per quanto riguarda l'anno solare 2016, a essere il secondo film. Ormai Revenant è a vista, nonostante il rilancio post Oscar. Il film con Leonardo DiCaprio è a 13 milioni e mezzo, Perfetti Sconosciuti è a 12 milioni, ma sta incassando ancora un paio di milioni la settimana. Quindi Quo Vado di Checco Zalone, con i suoi 65 e mezzo, rimane sempre e rimarrà per sempre probabilmente irraggiungibile. Però il secondo film dell'anno 2016 potrebbe essere un altro film italiano, un'altra commedia molto gradevole, molto gustosa, quella di Paolo Genovese. Allora andiamo adesso a sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo insieme per parlare di un thriller veramente molto riuscito. Si intitola The Gift, regali da uno sconosciuto. A fra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, vi abbiamo promesso un thriller, e thriller sia. Proseguiamo con l'analisi dei film in sala con questo Regali da uno sconosciuto, The Gift, il titolo originale di Joel Edgerton. Joel Edgerton è anche attore del film, è un attore e regista australiano, qui alla sua prima prova da regista. È un interessante thriller classico, potremmo chiamarlo così. Allora entriamo nel clima con questa clip. Scusa, ti chiami Simon? Sì. Sei tu, andavamo a scuola insieme. Lei è mia moglie Robin, lui è... non ricordo Ciao, il tuo nome. Gordon Mosley. Benvenuti a casa, Smile, Gordo. Come faceva a sapere dove abitiamo? Simon, dopo anni ero disposto a dimenticare il passato, quel che è stato è stato. Ho scoperto che Simon ha un dossier su di lui. Pensi che ti abbia mentito? Io non so chi sei, non lo so più. Pensi di aver chiuso con il passato, ma il passato non ha chiuso con te. E il tema del passato, del ritorno del passato, dei conti che il passato ci presenta ogni tanto, è un po' il tema che anima questo thriller, come dicevo, classico, nel senso che ha una struttura abbastanza convenzionale, se vogliamo, ma una regia che la rende piuttosto vivace. I due protagonisti, Jason Bateman e Rebecca Hall, nel ruolo di una coppia, Simon e Robin, che si trasferisce in California dalla loro città, che è Chicago, una bellissima casa tutta piena di vetri da tutte le pareti, una casa in cui non abiterei mai, francamente, troppo esposta, ma perfetta per un thriller, devo dire. Un giorno in un centro commerciale casualmente si imbattono in Gordon, detto Gordo, un ex compagno di scuola di Simon di quando erano ragazzi, che si erano persi di vista proprio per tutti questi anni passati lontano. Lui carpisce in qualche modo l'indirizzo in cui questa coppia è andata ad abitare, e da quel momento, diciamo così, non se lo scrolleranno più di dosso. Lui arriva con i suoi regali, la sua bottiglia di vino, le sue visite improvvise e anche abbastanza così, diciamo, inusitate, delle quali non c'è ragione, non c'è spiegazione. Piano piano questa presenza diventa pesante, pedante e anche abbastanza inquietante. E qui il film chiaramente scatena tutta una seconda parte che non vi diciamo e che ha anche dentro parecchie sorprese, parecchi colpi di scena. Una prova abbastanza sorprendente, devo dire, alla regia, quella di Joel Edgerton, proprio per la mano ferma con la quale dirige questi personaggi e questo film, nel quale lui appunto è nei panni di Gordo, dell'elemento dispari. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ti è piaciuto The Gift? Molto, molto. Io sono sempre un fan sfegatato di chi sa fare il genere in maniera solida ed efficace. Credo che il cinema abbia bisogno, anche perché oltre ad essere arte è anche intrattenimento, di chi ti tiene attaccato alla poltrona con efficacia, senza doverti per forza costringere a pensare quanto lui è bravo a girare o quanto sono bravi gli attori, quando un film ha una sua forza intrinseca. Poi chiaramente è compito di noi critici notare quanto questo sia poi dimostrazione del talento di chi è davanti alla macchina da presa, ma soprattutto dietro. Tu parlavi di una prova sorprendente, io devo dire anche una prova inaspettata, perché Joel Edgerton fa parte di quella casta di attori che non ti lasciano nessun ricordo particolarmente vivo con le loro interpretazioni. Mi sembra che il massimo esponente in questo senso sia Ben Affleck, e che poi invece dietro la macchina d'attesa riescano a trovare una felicità di racconto, una forza narrativa e anche un coraggio, perché questo Gift è pieno di riferimenti pesantissimi, da Hitchcock a Cape Fear, per intenderci, che lui maneggia con cura, maneggia con sensibilità, senza disinnescarli, quindi senza volerli necessariamente lasciare ai margini, ma senza nemmeno farsi invadere da loro. E ne esce fuori un film, come abbiamo detto, solido, geometrico quasi, in questo triangolo con questa coppia scelta secondo me benissimo anche proprio nell'estetica, questa coppia giovane e borghese che fin dai lineamenti denuncia la sua presunta normalità, presunta ordinarietà, bella ordinarietà, perché poi insomma come fa capire la casa in cui vivono, una coppia a cui le cose vanno bene, è una bella coppia, ecco, la classica bella coppia, e arriva Gordon dal passato di Simon, e questo Gordon è la chiave di un thriller molto interessante che non ha bisogno di alzare il Dolby o di spaventare facilmente lo spettatore, perché è Gordon l'elemento di sceneggiatura e di interpretazione che ti permette di entrare in un piccolo grande incubo, e lo fa anche proprio occupando degli spazi, cioè prima in uno dei più classici rapporti servo-padrone, che sono poi i rapporti più angoscianti, soprattutto se nascosti a tutti gli altri, sono rapporti fondati su ricatti morali e non, e poi proprio perché nel momento in cui il gioco di Gordon viene scoperto e da presenza bizzarra diventa presenza inquietante, quella marginalità che si chiede a Gordon lui la occupa proprio fisicamente, e lì è bravissimo Edgerton proprio a fargliela occupare sullo schermo e a farla rimanere una presenza immanente. Ecco, è difficilissimo parlare di un thriller senza raccontare nulla, ma assolutamente, cercando di dare l'atmosfera, spero di aver fatto capire che è davvero un progetto interessante, un film da vedere assolutamente. Poi ci sono le verità e le finzioni che si mischiano continuamente, soprattutto nella parte finale, buoni e cattivi che cambiano continuamente faccia, anche dopo il primo cambio non è ancora finita, e insomma è un film che devo dire dimostra una padronanza del genere, come dicevi giustamente tu, che è notevole per un regista esordiente. Joel Edgerton, tanto per dargli un volto a chi andrà a vedere The Gift, era nel grande Gatsby con Leonardo DiCaprio, così tutto si ricollega, l'uomo di successo col baffetto nella casa straordinariamente bella in cui si svolgevano le primissime scene appunto con Carey Mulligan, e anche qui siamo un altro incrocio nel film tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald, ve lo ricorderete, questo che tornava dalle cavalcate un po' un po' greve e nel suo incedere. Ecco, lui è Joel Edgerton, che adesso ritroviamo regista e coprotagonista, diciamo pure, di questo The Gift, Regali da uno sconosciuto, che è il primo film di cui vogliamo parlarvi in questo fine settimana. Adesso prendiamoci una piccola pausa per giocare insieme, per farvi ascoltare la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Diciamo che c'è una ragazza su cui vorrei fare colpo, ma lei è qualcuno e io non sono nessuno. Se io fossi qualcuno e lei non fosse nessuno, potrei parlarle. O se lei non fosse nessuno e io non fossi nessuno, potrei parlarle. Un po' menosa, diciamo così, come direbbe qualcuno, questa cosa, per far capire quanto tormento interiore, sebbene la voce di bambino dovrebbe portarvi sulla buona strada. Allora, la rosa purpurea @radio24.it è come sempre il nostro indirizzo, è come sempre il modo con cui giocare, scrivendo il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui tra qualche minuto ascolterete un'altra traccia. Abbiamo parlato di bambini, restiamo ai bambini, come sempre alla Rosa Purpurea si cambia pagina in maniera abbastanza veloce perché il tempo è poco, i film sono tanti. Pedro, Galletto Coraggioso, dalla Spagna, un film d'animazione dove i protagonisti sono soprattutto galletti e uova. Un giorno diventerò un famoso gallo pugile! Il piano mi sembra buono, però su chi puntiamo? Devi dipingere tutto lo steccato. Dai la cera, togli la cera. Così imparerò come batterlo. No, però se perderemo la fattoria almeno la lasceremo in buono stato. C'è un incontro da vincere. Ora devi imparare a volare. Perché? L'attaccherai dall'alto. Boris, un film, diciamo così, nel quale la parabola è quella che ormai è un po' la solita, insomma, da parecchi anni a questa parte, è un po' il trovare il coraggio dentro se stessi, la capacità e la paura di crescere, eccetera, eccetera. Questa volta, appunto, come dicevo, nel film di Gabriel Riva, Palacio a la Triste, nome lunghissimo, locandina molto larga, in orizzontale, film d'animazione messicano, detto spagnolo, in realtà messicano... Si interpreta appunto la storia di un galletto piccolo, un po' spennacchiato, poco più che un pollo, che però deve imparare a essere un'aquila, deve imparare a essere forte, deve imparare a essere un pugile addirittura, perché il film racconta proprio le gare di combattimenti fra galli, ma come fossero pugili, infatti si chiamano, parafrasando, i vari Rocky Balboa o i vari Toro Scatenato. E allora questo galletto dovrà salvare la fattoria in cui vivono lui e tutti i suoi parenti e amici dal fallimento. C'è sotto anche la crisi economica, c'è sotto anche questo tipo di lettura. Ma è un film estremamente godibile per i bambini, Boris, che mi è piaciuto per un fatto, rispetto per esempio a un esperimento recente, quello del tedesco Il viaggio di Norma. Allora, lì c'era il tentativo di alzare i decibel, come hai detto tu prima, e di alzare anche i battiti del film, di essere addirittura adrenalinici in maniera un po' forzata. Qui non si ha paura di essere messicani, di avere quel tipo di passo, quel tipo di incedere, con tanto di sketch, intervalli dei due toponi Sancho e Panzo, che cercano anche di, come dire, fare quasi della filosofia. Ecco, in questa capacità di essere se stessi e di fare le cose come le faresti, senza scimmiottare nessuno, mi sembra che stia il valore di questo film. Sì, sono pienamente d'accordo. Non c'è nulla di nuovo in Pedro Galletto Coraggioso, e anzi, se vogliamo, la cosa interessante è esattamente il contrario. Parliamo spesso di family movie, questo è proprio un kid movie, è un film che può divertire il padre o la madre costretti a vederlo con i figli, e che quindi chiaramente, insomma, si trovano lì e magari non si annoiano, però certamente non è un film che ha messaggi adulti o messaggi per adulti o che ha più piani di lettura. Pedro è orgogliosamente un film d'animazione per bambini che vuole divertire i bambini ancora prima che insegnargli qualcosa. È anche incidentalmente un romanzo di formazione sul grande sogno di poter essere qualcuno di diverso e anche di imprevedibile rispetto a quello che è il punto di partenza, perché tutti possono diventare qualcosa se solo lo vogliono, e in questo senso sa entusiasmare e divertire nella maniera più elementare possibile. Però non è una critica, nel senso che l'elementarità qua è un modo immediato e lineare di comunicare con lo spettatore, è conoscere il proprio spettatore, perché chiaramente sapere a chi ci si riferisce, e poi indovinare più o meno tutti i personaggi, da Pedro a, come dici tu, i due toponi che sono uno scarto in avanti del film, che hanno l'ambizione, secondo me, di essere anche uno spin-off. E poi, come dici tu, quella territorialità in un mondo così globalizzato paradossalmente ti fa sentire a casa, ti fa sentire di non essere un consumatore qualsiasi di un prodotto che vuole essere universale, ma di essere qualcuno che sta vedendo qualcosa comunque di speciale. E quindi in questo senso devo dire un prodotto semplice che non rimarrà tra i capolavori di animazione, neanche tra i gioielli, ma che ha una sua efficacia da vedere, soprattutto per i bambini. E allora, con questo consiglio per i più piccoli, Pedro Galletto Coraggioso, noi diamo la linea alla regia, torniamo fra poco per parlare e alzare davvero i decibel stavolta di Attacco al Potere 2. Fra poco. La Rosa Purpurea. Con un livello di sicurezza senza precedenti, questo non è solo un incontro fra i più potenti leader della Terra. È anche l'evento più blindato del pianeta. Benvenuto a Londra, signor Presidente. Siete qui! Il Presidente degli Stati Uniti. Ora! È ufficialmente disperso. Per i nostri amici dell'Ovest. Barkawi. È il terzo terrorista più ricercato. Che cosa vuoi? Il vostro Presidente. Questo non accadrà mai. Immaginate tutte le grandi città sprofondare nel caos. Oh mio Dio. Torna la saga, ormai mini saga, diciamo così, di Attacco al Potere. Se nel primo film c'era la Casa Bianca sotto attacco, qui, diciamo, nel mirino c'è sempre Washington, ma i fatti si spostano sull'altro grande alleato europeo, sull'Inghilterra, e il fatto però rimane un po' sempre lo stesso: un assedio al potere americano senza precedenti. Lì erano, se non ricordo male, i nordcoreani che attaccavano la Casa Bianca. In questo caso, comunque sia, l'asse del male, il terrorismo islamico, è sempre sotto traccia. Boris, l'avevo detto che si alzavano i decibel. Dici se c'è qualcosa sotto i decibel, se questo Attacco al Potere 2, come dire, rinverdisce questo genere, insomma, che negli Stati Uniti va molto bene, proprio perché forse pesca nelle paure più recondite degli americani. Ma sì, sotto i decibel niente, direi, perché poi pesca nelle paure più recondite tirando su una scarpa vecchia, no? Come si vede nei cartoni animati, quando sembrava che avesse abboccato il pesce invece era uno scarpone o un rifiuto. E il problema di Attacco al Potere 2 è che è il sequel del film di 3 anni fa, che era già un film con grandissimi limiti e ne replica i limiti senza averne nemmeno quella freschezza. E devo dire che è vero che uno non dovrebbe giudicare un film in base a ciò che l'attualità gli propina, però è evidente che dopo Charlie Hebdo, dopo gli attentati del novembre scorso, vedere un film in cui Londra viene messa a ferro e fuoco, appunto London has fallen, semidistrutta dai terroristi, e poi si parla di un primo ministro che muore e dei capi di Stato che devono assolutamente andare al funerale. E l'attualità ci ha insegnato che i capi di Stato possono non andare anche a funerali importantissimi per ragioni di sicurezza. Insomma, quando dopo 3 anni vieni superato, ahimè, dall'attualità, perdi anche tutta quella forza narrativa che ti viene dalla paura, appunto, dalla paura dello spettatore, dalla possibilità che tutto questo possa essere realistico. Quello che abbiamo visto purtroppo ha un'efficacia visiva estremamente più alta di quello che vediamo in Attacco al Potere 2. Cinematograficamente parlando, noi abbiamo da una parte Gerard Butler, che addirittura qui anche come produttore, e che evidentemente vuole diventare il Bruce Willis di questi anni. Prova in tutti i modi a cercare, dopo una carriera che era partita bene e che adesso insomma vivacchia, prova a cercare un suo posto nel firmamento e nell'immaginario americano degli Stati Uniti, e frutta quella faccia bella da duro ma anche un po' ironica per provare a tornare a quel tipo di film anni 80. E infatti poi alla fine il tema non è tanto il terrorismo, che viene pure maltrattato come tema, perché insomma anche l'aspetto tecnico delle misure di sicurezza del thriller è scritto piuttosto male, quanto il buddy movie tra chi si occupa della sicurezza del presidente e il presidente, che se vogliamo è un genere anche più vecchio di quello terroristico. Quindi francamente è un buddy movie che poi non ha chissà quale vivacità, E devo dire, insomma, ecco, trovo più eroico Pedro Galletto Coraggioso. Potente Pedro Galletto Coraggioso. Sì. Sapevo che andava a finire lì. No, beh, diciamo che se proprio uno allora deve scegliere questa settimana un film d'azione, può buttarsi su Legend, ecco, che magari fa le cose che ti aspetti, ma le fa piuttosto bene, con Tom Hardy, che è uno dei cattivi del cinema recente, insomma, protagonista. Forse lì la vera storia dell'ascesa e della caduta dei gangster londinesi, Reggie e Ronnie Cray, fa il suo mestiere, no? Assolutamente d'accordissimo. Lì c'è un'idea comunque di scrittura, c'è un'idea attoriale, nel senso che chi poi occupa la scena non la occupa per trovare un posto nella struttura e per farsi vedere, ma perché ha un senso all'interno del racconto, e i ritmi sono completamente diversi e decisamente più sostenuti, e quindi sì, no, assolutamente sono d'accordo. Non mi fa impazzire neanche Legend, ma al confronto con Attacco al Potere 2 e Quarto Potere, insomma. E allora, questa è la sezione action della Rosa Purpurea di questa settimana. Noi invece siamo arrivati al momento di giocare nuovamente insieme col film misterioso di oggi. Devo parlare con Messi per trovare il libro più bello di tutti i tempi. Forse posso darti una mano io, Ciccio. E allora, qui avete sentito anche un nome, quindi siamo andati ancora un passetto avanti. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, provate a indovinare e a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. È arrivato il momento di parlare del film di cui volevo parlare dall'inizio della trasmissione, ma le chicche le teniamo un po' sempre verso la fine. Stiamo parlando di Room, che non è il famoso liquore caraibico, ma è La Stanza, R-O-O-M. Room di Lenny Abramson con Brie Larson, premio Oscar proprio per questo film, Nella notte delle stelle, di meno di una settimana fa. Ascoltiamo la clip. Camion, sguscia via, salta, corri. Per 5 anni lei ha reso la vita in quella piccola stanza, quella prigione, più confortevole e normale che ha potuto. Lei ha scelto di dire a Jack che la stanza era tutto il mondo e che non esisteva nient'altro. Siamo su un altro pianeta. È lo stesso, ma in un posto diverso. No matter how sweet the song. Sono nel mondo da 37 ore. Lui ci troverà. No, lui non ci troverà mai. E insomma, è già toccante questa clip, la storia di una mamma e di un bambino che per 5 anni vivono in una stanza anche piuttosto piccola, che è la loro casa, e che è una galera, una vera e propria prigione. L'unico punto luce è il lucernario sul tetto, praticamente irraggiungibile, tutto insonorizzato. In questa casa, in questa stanza, arriva una volta alla settimana un uomo che abusa della donna, porta dei viveri e poi se ne va. È il padre del bambino, ma la mamma fa l'opera di amore più grande che esista. Spiega e dice e racconta in quei lunghi 5 anni in cui il bambino è nato e cresciuto che quel posto è il mondo, che quel posto è quello che esiste, mentre tutto quello che lui vede alla televisione, perché c'è una piccola televisione in questa stanza, o che vede fuori da quel lucernario, è un altro pianeta, è un altro mondo, ma loro sono un'isola. Il bambino è cresciuto tutto sommato sereno in questi 5 anni, proprio grazie a questa bugia pietosa, diciamo così, di una madre costantemente e per forza sull'orlo di una crisi di nervi. La cosa bella di questo film è che quello che ti aspetti come finale, cioè che loro in qualche modo si liberino o non si liberino, questo chi lo sa, diventa invece uno snodo del film. Dopodiché si apre un altro film, potremmo dire, che è quello di quello che accade alla gente quando il passato, e siamo di nuovo sul tema del passato, l'ha segnata così profondamente. Straordinaria la prova di Brie Larson, Oscar strameritato, belle anche le interpretazioni parallele di un vecchio marpione come William H. Macy, di Joan Allen, del bambino Jacob Tremblay, che ha fatto anche un bellissimo tappeto rosso, red carpet a Los Angeles. Un film che reinventa un po' un genere, un dramma molto molto emozionale, veramente dall'inizio alla fine, nel quale Boris non si guarda veramente mai l'orologio. No, è un film pazzesco, anche perché secondo me dimostra, ed è bravissimo Lenny Abramson, a cui onestamente non consegnavo, pur riconoscendo nel talento, non consegnavo un talento tale da poter inventarsi un film di questo tipo, perché è la dimostrazione di come il cinema possa veramente raccontare tutto, anche l'inimmaginabile, anche l'inspiegabile. In questo caso noi abbiamo, se vogliamo, una non storia, perché tutto quello che noi vediamo è il frutto di qualcosa che è già accaduto, e quindi il thriller che poteva esserci dietro, il dramma che poteva esserci dietro è già avvenuto. Noi vediamo quello che stanno vivendo, cioè la conseguenza, quello che normalmente rimane fuori dalla fine del film o fuori comunque dal film. E la storia di questa madre che eroicamente, tu l'hai chiamata bugia pietosa, io mi sentirei di dire che racconta la verità in un'altra maniera. Loro sono stati esiliati dal loro pianeta e sono finiti su un'isola, sì, fatta da quattro mura, ma sono finiti su un'isola, e che in qualche modo tenta proprio questo, cioè fa la stessa sfida che fa Lenny Abramson, cioè quella di spiegare l'inspiegabile. E non c'è il modo anche un po' furbo, no, che possiamo aver visto in altre occasioni, no? Penso al Benigni della Vita è Bella, che lo usa come stratagemma narrativo. No, qui è la costante sfida di questa donna, che è ben consapevole di quello che sta accadendo ed è ben consapevole di non poter andare a lungo davanti. E poi c'è la scommessa straordinaria, e qui è ancora più difficile rispetto a The Gift rimanere in silenzio rispetto alla trama, continuando la recensione. È incredibile come la sfida, il trionfo e la vittoria arrivino con quella seconda parte di film che è davvero imprevisto ed imprevedibile, perché se era difficile raccontare quella struttura claustrofobica, diventa ancora più difficile fare quello che non si aspetta nemmeno lo spettatore, che invece cerca come una liberazione la fine di quella prigionia, qualsiasi essa sia. Il merito di chi è merito di chi l'ha scritto, è merito di chi l'ha diretto, però devo dire che senza quei due attori non staremmo parlando di uno dei film più interessanti degli ultimi anni, e non solo di questa stagione, come testimonia l'Oscar, con Brie Larson, che già nel 2013 con un bellissimo film a Locarno aveva vinto un premio e che ha un talento che veramente sta crescendo a dismisura, e questo piccolo Jacob Tremblay che non è il classico, e questo fateci molta attenzione, non è il classico bambino attore, ha una consapevolezza interpretativa che va ben oltre l'istrionismo del bambino di talento. Fa impressione il modo in cui passa il testimone della maratona attoriale alla madre durante tutto il film. Se lui non fosse all'altezza di lei, e lei è una delle attrici migliori che abbiamo in questo momento, non avrebbe la stessa efficacia. Quindi davvero un esempio, è una lezione di cinema, al di là del fatto che è un bel film, di regia, di sceneggiatura e soprattutto di recitazione. E allora, promosso a pieni voti Room di Lenny Abramson, di cui avevo amato il film Garage, visto a Torino nel 2007, di cui avrete sicuramente sentito parlare, di Frank, quello con il musicista che andava in giro con una maschera enorme che copriva la sua faccia, insomma, regista che sa essere originale nelle scelte, l'ho dimostrato anche in questo Room. Linea alla viabilità, torniamo fra poco. Boris, io nel frattempo ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, viabilità, e poi a parlare di festival, di iniziative, da Cartoomix di Milano al Bergamo Film Meet. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, abbiamo detto festival, saloni, momenti di incontro comune, e arriva la primavera e tutto sfocia, tutto sboccia. A Milano, dall'11 al 13 marzo della prossima settimana, quindi, a Fiera Milano Ro, c'è Cartoomix. Cartoomix, che per tutti è il tradizionale, ormai 23esima edizione, salone del fumetto, dei comics, dei cosplay, della fantascienza, dei videogame, insomma di tutto questo tipo di intrattenimento, ma che sempre di più negli ultimi anni è diventato anche molto molto cinema. Perché? Perché la direzione artistica da qualche anno è in mano a Filippo Mazzarella, che è un caro amico oltre che un collega di rango e che è in collegamento con noi. E allora, Filippo, raccontaci un po' quanto cinema c'è in questo Cartoomix 2016. Beh, ce n'è parecchio ed è un cinema a volte mainstream e a volte trasversale. Potrei cominciare dicendoti che venerdì inauguriamo con il botto, con un incontro con il regista di Kung Fu Panda 3, con il co-regista di Kung Fu Panda 3, uno è Gianni Sorio e l'altro un italiano, Alessandro Carloni, però ovviamente manteniamo la nostra condotta, che è quella di aver creato per ogni anno un fan film festival. Stiamo indagando questi fan film realizzati, come dire, senza l'autorizzazione reale degli aventi diritto dei marchi che vengono presi in considerazione, come Superman, Batman, Flash, tutti i marchi Marvel eccetera, ma che sono realizzati da grandissimi artigiani che competono e rivaleggiano con i migliori prodotti di Hollywood. E poi abbiamo ovviamente la solita panoramica su tutto quello che è il cinema di fantascienza, il cinema di genere, i cartoni animati, con delle anteprime da parte anche sempre di NIT, che è sempre molto molto sollecito a darci il meglio di quello che deve uscire nei prossimi mesi. Avremo anche una grossa anteprima che non posso ancora svelare in questo momento, e poi ovviamente tutto quello che riguarda anche la promozione, tra virgolette, perché no, del cinema in arrivo, quindi Superman, Batman e Civil War, che saranno, come dire, i due poli su cui inverterà l'attenzione fumettistica e cinefila legata a questo mondo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E allora, grazie Filippo Mazzarella, ci ha condensato tutto il cinema che c'è a Cartoomix 2016, prossimo weekend praticamente a Milano, anzi alla Fiera di Rho. Noi facciamo un balzo di una quarantina di chilometri a est per parlare invece del Bergamo Film Meeting, 34esima edizione di questo festival, che invece è già in svolgimento dal 5 al 13 di marzo. Come sempre, uno sguardo sul cinema d'autore, del presente, del passato, e su una sorta di festival della cinefilia, potremmo definirlo. Angelo Signorelli, il direttore del Bergamo Film Meeting, è con noi. Ciao Angelo, ben ritrovato. Ciao. La Rosa Purpurea, ciao. Allora, ciao. Cosa troviamo stavolta in questo festival della cinefilia? Tanto cinema europeo, sia contemporaneo che legato appunto alle retrospettive, che sono una parte comunque molto importante del nostro festival. Quindi Iancio, Miklos Iancio ungherese, come retrospettiva storica, e un omaggio ad Anna Karina, quindi un'attrice che è stata un po' un culto della Nouvelle Vague, fatto 7 film con Godard, in più è stata anche sua moglie. Anna Karina sarà a Bergamo e quindi ci racconterà un po' tutta questa sua vita d'attrice, ma non solo, anche di cantante, di scrittrice, insomma un personaggio molto interessante. Voi avete sempre avuto un grande rapporto con le cineteche, soprattutto britanniche, ma in generale internazionali. Dacci un paio di chicche, un paio di film del passato che arrivano di solito a Bergamo in splendide copie restaurate per poter orientare i nostri ascoltatori. Allora facciamo proponiamo questo, l'ultimo film di Lubitsch, Ce lo può attendere, perché è parte di un progetto di distribuzione che poi appunto annunceremo la serata di chiusura di Bergamo Film Meeting. E poi appunto ci sono, come ti dicevo prima, c'è Iancio, che è praticamente sconosciuto da parte del pubblico italiano, quindi già dai suoi primi lavori dei primi anni 60 fino al periodo appunto di acquisizione di questo stile molto riconoscibile, piani sequenza, visione sulla storia, messa in scena, narrazione fatta attraverso appunto il passaggio di personaggi e di situazioni. Perfetto, grazie Angelo Signorelli. Bergamo Film Meeting fino al 13 di marzo a Bergamo. Ciao Angelo. Ciao, ciao, grazie a voi, ciao. E allora, avete visto anche quanto cinema da vedere, da cercare, da trovare in giro nelle rassegne. Siamo arrivati al momento di parlare invece del cinema da vedere a casa, quando proprio non ce la fate ad andare davanti al grande schermo, che è la sede ufficiale del cinema. Allora, andiamo per ordine. Risolviamo il nostro gioco della scorsa settimana. Questa è una domanda ufficiale. Città del Messico, che cosa ci faceva lì? È stata una coincidenza. Avevo delle ferie arretrate. E con questa battuta se la cava l'agente 007, si trattava di Spectre, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Lo hanno indovinato per primi Fabio Busi di Paderno d'Adda, provincia di Lecco, e Riccardo Morotti di Prato, e loro due riceveranno il Blu-ray della edizione appunto di Spectre, l'ultimo in ordine di tempo film della saga di 007, del quale ci facciamo raccontare tutto da Film TV e segnatamente da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo della 24esima avventura di 007, sospeso dal servizio segreto dal progetto Doppio Zero, che si mette sulle tracce da solo del presunto capo della Spectre, agenzia criminale tentacolare che è nemica di Bond fin dalla notte dei tempi. Dopo il bellissimo Skyfall, che è stata un po' la vetta shakespeariana di questo Bond di Craig, Sam Mendes torna alla pellicola, esaspera l'intrico che per qualcuno è soapoperistico, per qualcun altro è tragico a seconda dei punti di vista, e ci offre un incipit folgorante, una Bond girl, Lea Seydoux, come non se ne vedevano da anni, e una ricognizione di omaggi e luoghi comuni della serie. Il Blu-ray ha un ottimo riversamento, ma ha contenuti speciali Sky. E allora andiamo a vedere adesso le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana con Il Principe di Homburg di Marco Bellocchio, un Bellocchio un po' da riscoprire, domenica 6 marzo su Rai 3 all'1:45 di notte. Sì, Il Principe di Homburg è un ufficiale di cavalleria che lancia in battaglia il suo squadrone prima però del tempo convenuto. Comunque vince, viene condannato a morte però per aver trasgredito gli ordini e aver scelto la legge del cuore e non quella a priori. Finisce poi per mendicare la grazia, gliela si concede, ma solo nel caso il principe affermi una cosa ben precisa, ovvero di aver subito un'ingiustizia. In questo modo si trova a dover scegliere tra la vita e la dignità. Bellocchio adatta un testo di von Kleist, che è un autore illuminista ma sempre tentato dal romanticismo, e mette in scena un teatro spoglio, spettrale, veramente astratto, sospeso tra il sonno e la veglia, per raccontare lo scontro tra la legge universale e il principio personale, l'etica condivisa e quella privata, in fondo come sempre nel suo cinema il nome del padre e quello del figlio. Un film veramente bellissimo che sa insieme di parabola, di insegnamento ma anche di racconto sprezzante e ironico. E invece, venerdì, e quindi segnatevelo perché mancano un po' di giorni, venerdì 11 marzo su TV 2000 alle 21, un capolavoro di Vincent Minnelli, Incontriamoci a St. Louis. Sì, il signor Smith annuncia al parentato di aver ottenuto il trasferimento da St. Louis a New York, la notizia è accolta male dalle figlie, una tra l'altro fidanzata, in più l'anno successivo c'è la grande fiera del 1903. Terzo film di Vincent Minnelli, il primo a colori e uno dei migliori del suo primo periodo, anche se qui in realtà sostituisce all'ultimo, George Cukor, ed è un film girato con i soliti eccellenti crismi della casa di produzione MGM. Un film che veramente testimonia, con dei numeri musicali perfettamente integrati nella narrazione, un'evoluzione e una maturità del genere musicale. Tra l'altro fu un film galeotto perché è il primo film di Judy Garland con Vincent Minnelli, che sarà il suo futuro marito. E la piccola protagonista del film ha vinto un premio Oscar meritatissimo. E allora non perdetevelo su TV 2000 alle 21 di venerdì 11 marzo, Incontriamoci a St. Louis. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine della nostra rosa purpurea di questo weekend. Speriamo di esservi stati come sempre utili per orientare le vostre scelte cinematografiche di questo fine settimana e di tutta la prossima. Noi ci risentiamo sabato alle 18 qui su Radio 24.